5D. Ascolta e trasforma. Quell'albergo è bello. Quegli alberghi sono belli. Quell'attore è bello. Quegli attori sono belli. Quell'edificio è bello. Quegli edifici sono belli. Quell'orologio è bello. Quegli orologi sono belli. Quello specchio è caro. Quegli specchi sono cari. Quello studente è intelligente. Quegli studenti sono intelligenti. Quello spettacolo è eccezionale. Quegli spettacoli sono eccezionali. Quello scrittore è famoso. Quegli scrittori sono famosi.